Capitolo 3. La prima cosa che ricordo, dopo quella scena, è ad essermi svegliata con la sensazione di uscire da un incubo pauroso, o con una incerta luce rossastra attraversata da grosse sbarre nere davanti agli occhi. Poi percepii un rumore di voci sorde e lontane, come se il vento o uno scroscio d'acqua le attutisse. Agitazione, incertezza e un senso dominante di terrore confondevano le mie facoltà. Dopo un poco cominciai a rendermi conto che qualcuno si occupava di me. Mi rialzarono, mi misero a sedere, sorreggendomi per le spalle, con una sollecitudine che mai nessuno aveva messo in quei gesti, ed io appoggiai la testa ad un cuscino, o forse a un braccio, e provai un senso di benessere. In capo ad altri 5 minuti il mio smarrimento scomparve. Ora mi rendevo conto perfettamente d'essere nel mio letto, e nella misteriosa luce rossa riconobbi il fuoco del camino. Era notte, una candela ardeva sulla tavola. Bessie stava ai piedi del letto con un catino in mano ed un signore seduto al mio capezzale era chino su di me. Provai un inesprimibile sollievo, un consolante senso di protezione e di sicurezza quando capii che vi era un estraneo nella stanza, un individuo che non apparteneva a Gateshead e che non era unito da alcuna parentela alla signora Reed. Distogliendo gli occhi da Bessie, sebbene la sua presenza mi riuscisse meno sgradevole di quella, ad esempio, di Abbott, se ci fosse stata, scrutai il volto di quell'uomo. Lo conoscevo, era il signor Lloyd, un farmacista al quale la signora Reed soleva ricorrere se qualcuno dei servi si ammalava. Per lei e per i suoi figli invece chiamava un medico. Su, sai dirmi chi sono? Mi chiese egli. Pronunciai il suo nome, porgendogli la mano, che egli prese, sorridendo. Con un po' di pazienza ti guariremo, disse. Poi mi riadagiò sotto le coltri e raccomandò a Bessie di evitare che fossi disturbata durante la notte. Aggiunse qualche altra istruzione e, avvertendola che l'indomani sarebbe ritornato, uscì. Ahimè, mi ero sentita così protetta e rincuorata mentre stava seduto presso il mio capezzale che, quando chiuse la porta dietro di sé, la stanza piombò nel buio e il cuore mi mancò nel petto un'altra volta, oppresso da un'indicibile tristezza. Crede che riuscirà a dormire, signorina? Mi domandò Bessie quasi gentilmente. Feci uno sforzo per risponderle, temendo questa volta una frase sgarbata. Tenterò, dissi infine. Vuol bere qualcosa, mangiare un boccone? No, grazie, Bessie. Allora vado a dormire perché è mezzanotte suonata, ma può chiamarmi se ha bisogno. Quanta cortesia! Mi diede il coraggio di farle una domanda. Bessie, che cosa mi è successo? Sono malata. Deve essersi sentita male a furia di piangere nella camera rossa, ma si rimetterà presto, non abbia paura. E così dicendo, Bessie si ritirò nella camera attigua destinata alla servitù. Subito dopo udii la sua voce che diceva: Sara, vieni a dormire con me nella stanza dei bambini. Non me la sento di rimanere sola con quella poverina questa notte. Potrebbe anche morire. Non ti pare strano che abbia avuto un accesso simile? Mi domando se non abbia visto qualche spirito. E poi la signora è stata troppo dura con lei. Bessie ritornò seguita da Sara e tutte e due si misero a letto, ma parlottarono per una buona mezz'ora prima di addormentarsi. Da qualche frase che riuscii a cogliere della loro conversazione, potei dedurre anche troppo chiaramente quale ne fosse l'argomento principale. Le è passata vicino un'ombra tutta vestita di bianco, che poi è scomparsa. C'era un grosso cane nero dietro a lui, 3 colpi battuti alla porta, una luce nel cimitero, proprio sopra la sua tomba, e così via. Finalmente il sonno le colse. Il fuoco e la candela si spensero e, quanto a me, trascorsi, vegliando quella lunga notte, con l'udito, la vista e l'immaginazione tesi e acuiti dalla paura, una di quelle paure che soltanto l'infanzia conosce. L'incidente della camera rossa non fu seguito da alcuna seria malattia, ma diede una tale scossa ai miei nervi che ne risento ancora oggi. Sì, signora Reed, devo a lei quelle angosce, quelle sofferenze mentali che a volte mi torturano. Ma devo perdonarle, perché lei non si rendeva conto di ciò che faceva, non capiva di straziarmi il cuore, mentre secondo lei tentava solamente di sradicare i miei cattivi istinti. La mattina dopo, verso mezzogiorno, ero in piedi e vestita, e avvolta in uno scialle, stavo seduta accanto al caminetto nella stanza dei bambini. Mi sentivo fisicamente debole e affranta, ma il male peggiore era l'inesprimibile abbattimento del mio spirito, un abbattimento che mi strappava dal petto lagrime silenziose. Non facevo in tempo ad asciugarne una che un'altra mi scorreva giù per le guance. Eppure avrei dovuto essere contenta, mi dicevo, perché nessuno dei Reed era in casa. Erano usciti tutti in carrozza con la loro mamma. Abbott cuciva in un'altra stanza e Bessie, mentre andava e veniva riponendo giocattoli e riordinando cassetti, di quando in quando mi rivolgeva una parola insolitamente affettuosa. Questo stato di cose avrebbe dovuto sembrarmi un paradiso di pace, abituata com'ero ai continui rimproveri e a sforzi incompresi. Ma i miei nervi scossi erano ora così mal ridotti che nulla, nemmeno quella pace inconsueta poteva lenirli, né alcunché di piacevole eccitarli. Bessie ritornò dalla cucina, dove era scesa, portandomi un dolce sopra un certo piatto di porcellana che solitamente mi mandava in visibilio a causa dell'uccello del paradiso annidato in un viluppo di convolvoli e di boccioli di rosa dipinto sul fondo. Avevo tante volte domandato di poter prendere in mano quel piatto per guardarlo da vicino, ma ogni volta ero stata giudicata indegna di simile privilegio. Ed ecco che ora quella preziosa stoviglia stava sulle mie ginocchia ed io venivo affettuosamente invitata a mangiare i cerchietti di delicata pasta dolce che vi erano posati sopra. Favore vano, giunto, come molti altri favori spesso negati e lungamente desiderati, troppo tardi. Non riuscii a mangiare il dolce e le piume dell'uccello e i colori dei fiori mi sembrarono stranamente sbiaditi. Così respinsi tanto il piatto quanto il dolce. Bessie mi chiese se volevo un libro, e la parola libro agì su di me da stimolo passeggero e la pregai di prendermi dalla biblioteca i viaggi di Gulliver. Era un libro che avevo sfogliato più e più volte con delizia. Prendevo quei racconti come fatti veri e vi trovavo più soddisfazione che nei racconti di fate, poiché, dopo aver cercato inutilmente le silfidi tra le foglie di digitale e le campanule, ai piedi dei funghi e sotto l'edera che ammanta i vecchi muri, mi ero infine rassegnata a credere che avessero lasciato l'Inghilterra per qualche contrada selvaggia, dove i boschi erano più fitti e più selvatici e la popolazione meno densa. Mentre Lilliput e Brobdingnag dovevano trovarsi in qualche angolo della terra, e non dubitavo affatto di potere un giorno intraprendere un lungo viaggio, vedere coi miei occhi i piccoli campi, le case, gli alberi, le mucche, le pecore, gli uccelli in miniatura di quel popolo minuscolo, e i campi di grano alti come foreste, i mastini giganteschi, i gatti mostruosi, gli uomini e le donne imponenti come torri dell'altro regno. Eppure, quando quel caro libro mi fu messo in mano e ne sfogliai le pagine cercando nelle sue splendide illustrazioni il magico incanto che sempre avevano esercitato su di me, mi parve tutto spento, squallido e ostile. I giganti erano fantasmi macilenti, i pigmei folletti malevoli e grotteschi, Gulliver un malinconico viandante in contrade desolate e infide. Richiusi il libro che non osavo più guardare e lo posai sulla tavola accanto al dolce intatto. Bessie, frattanto, aveva finito di spolverare e riordinare la stanza e, dopo essersi lavata le mani, aperse un certo cassettino pieno di ritagli di seta e di raso e cominciò a cucire una cuffietta nuova per la bambola di Georgiana. Lavorando, cantava e la sua canzone diceva: «Quando una volta vivevamo come zingari, tanto, tanto tempo fa». Era una canzone che avevo sentito spesso ed ogni volta mi metteva allegria perché Bessie aveva una bella voce, perlomeno così mi sembrava. Ma ora, sebbene la sua voce fosse dolce e ben modulata come sempre, quella canzone mi parve indescrivibilmente triste. A volte, quando ella seguiva con più attenzione il suo cucito, il canto si faceva più lento e il ritornello, tanto, tanto tempo fa, le usciva di bocca fiacco e triste come la strofa di un inno funebre. Ad un tratto la canzone cambiò. Bessie aveva intonato una ballata veramente malinconica che diceva: «Ho le membra dolenti e il corpo affaticato, e lunga è ancora la via, selvagge le colline, il crepuscolo incombe, il lune, tetro e ostile, sopra l'aspro sentiero dell'orfana bambina. Perché mi hanno mandata da sola sì lontano, fin là dove la landa confina con le rocce? Gli uomini son malvagi, e solamente gli angeli vegliano sul sentiero dell'orfana bambina. Eppure nella notte spira una lieve brezza, un lucore di stelle rischiara il cielo terso. Il Dio buono e pietoso conforta e dà speranza all'animo smarrito dell'orfana bambina. Se il piede mi mancasse sopra il ponte in rovina, o se nella brughiera io smarrissi la strada, anche allora il Signore onnipresente e vigile aprirebbe le braccia all'orfana bambina. Sempre questo pensiero dovrebbe darmi forza, anche se priva sono di una casa ed affetto. Il cielo m'offre asilo. Là troverò riposo, perché Dio è l'amico dell'orfana bambina». «Su, su, signorina Jane, non pianga!» esclamò Bessie quando ebbe finito di cantare. Tanto sarebbe valso dire al fuoco non bruciare. Ma come poteva indovinare quella semplice creatura lo stato di morbosa malinconia al quale ero in preda? Nel corso della mattina il signor Lloyd tornò a vedermi. Come? Già alzata? Disse entrando nella stanza e rivolgendosi a Bessie. Come sta la bambina? Bessie rispose che stava molto meglio. In questo caso dovrebbe avere un viso un po' più allegro. Venga qui, signorina Jane. Il suo nome è Jane, non è vero? Sì, signore. Jane Eyre. Lei ha pianto, signorina Eyre, vuol dirmi perché? Ha qualche dispiacere? Scommetterei che ha pianto perché non ha potuto uscire in carrozza con la signora. Interloquì Bessie. Ma no, è troppo grande per simili fanciullaggini. Lo pensavo anch'io, e ferita nel mio amor proprio, fui pronta a rispondere. Non ho mai pianto per un'inezia come questa in tutta la mia vita. Detesto di uscire in carrozza, e se piango è perché sono infelice. Su via, signorina, mi ammonì Bessie. Il bravo farmacista apparve un po' perplesso. Io ero in piedi di fronte a lui ed egli posò su di me uno sguardo scrutatore. Aveva gli occhi grigi e piccoli, non proprio vivaci, ma credo che oggi li giudicherei penetranti. E un viso severo, dal quale traspariva tuttavia una grande bontà d'animo. Dopo avermi considerata a lungo, gli disse: Cos'è che ieri l'ha fatta star male? È caduta? Si intromise di nuovo Bessie. Caduta? Andiamo, lei ne parla ancora come di una bambina che muove i primi passi. Non sa camminare alla sua età? Eppure deve avere 8 o 9 anni. Mi hanno gettata in terra, spiegai senza preamboli, irritata da quella nuova offesa al mio amor proprio. Ma non è per questo che sono stata male, aggiunsi, mentre il signor Lloyd fiutava una presa di tabacco. Mentre gli riponeva la tabacchiera nel taschino del panciotto, sentimmo suonare la campana che chiamava la servitù a tavola. Conoscendo le abitudini della casa, il signor Lloyd disse a Bessie: È per lei, vada pure, intanto io terrò un discorsetto alla signorina Jane. Bessie avrebbe preferito rimanere, ma fu costretta a scendere perché la puntualità ai pasti era una regola alla quale non si transigeva impunemente a Gateshead Hall. Dunque, se non è stata la caduta a farle smarrire i sensi, che cosa è stato? Continuò il signor Lloyd quando Bessie ci ebbe lasciati. Mi hanno chiusa a chiave in una stanza dove di notte ci sono gli spiriti. Vidi il signor Lloyd sorridere, ma con la fronte aggrottata. Gli spiriti? È proprio una bambina, allora. Ha paura degli spiriti? Di quello del signor Reed, sì, è morto in quella stanza, e di lì è partita la sua bara. Tutti, anche Bessie, evitano di entrarci quando è buio, se appena possono farne a meno. È stata una crudeltà chiudermi là dentro, da sola, senza nemmeno una candela. Una tale crudeltà che credo non la dimenticherò mai più. Quante sciocchezze! Ed è questo che la rende infelice? Ha paura ora che è giorno? No, ma tra poco sarà notte di nuovo, e inoltre soffro, soffro molto, per altre ragioni. Quali? Vuol dirmele? Come avrei desiderato rispondere esaurientemente a quella domanda. Ma com'era difficile formulare una risposta. I bambini sono sensibili, ma non sanno analizzare i loro sentimenti, e anche se questa analisi ha luogo almeno in parte nella loro mente, essi non sono in grado di esprimerne con le parole il risultato. Ansiosa tuttavia di non perdere quella prima ed unica occasione di alleviare la mia angoscia, confidandola ad altri, dopo una pausa imbarazzata mi sforzai di dare una risposta breve, sì, ma per quanto possibile sincera. Prima di tutto non ho padre né madre né fratelli né sorelle, ma ho una buona zia e dei cugini. Tacqui di nuovo e dopo un momento, sempre più confusa, dissi: John Reed mi ha percossa e fatta cadere, e la zia mi ha chiusa a chiave nella camera rossa. Il signor Lloyd ricorse di nuovo alla sua tabacchiera. Non le piace Gateshead Hall? Mi chiese. E non è contenta di poter vivere in una casa tanto bella? Non è la mia casa, signore, e Abbott dice che ho meno diritto di una serva di abitare qui. Non sarà così sciocca da desiderare di andarsene da questa splendida villa. Se sapessi dove andare, sarei felice di abbandonarla, ma non potrò lasciare Gateshead fino a quando non sarò cresciuta. Forse invece sarebbe possibile, non si può mai sapere. Ha qualche parente oltre la signora Reed? Non credo, signore. E da parte di suo padre non ha nessuno? Non so, l'ho chiesto una volta alla zia Reed, e lei mi ha detto che forse qualcuno c'è della famiglia Eyre, ma gente povera, di bassa condizione. Comunque lei non ne ha mai saputo nulla. Se questi parenti esistessero, le piacerebbe andare da loro? Riflettei. La povertà sgomenta gli adulti, e più ancora i bambini, i quali non sanno immaginare una povertà industria, operosa, rispettabile. In quella parola essi identificano solamente vesti cenciose, magre vivande, camini spenti, modi sgarbati e vizi vergognosi. Per me povertà era sinonimo di degradazione. No, non mi piacerebbe vivere in casa di povera gente, fu la mia risposta. Nemmeno se le volessero bene? Scrollai il capo. Non riuscivo a capire come la povera gente potesse essere buona. E poi imparare a parlare come loro, adottare le loro abitudini, non avere educazione, crescere simile a quelle povere donne che qualche volta vedevo con un bambino in braccio, occhine sulla tinozza del bucato, davanti alla soglia delle loro casupole nel paese di Gateshead. No, non mi sentivo abbastanza eroica per acquistare la libertà a prezzo della mia condizione sociale. Ma sono proprio così i poveri suoi parenti? Lavorano? Non lo so. La zia Reed dice che se ne esistono devono essere mendicanti e io non voglio andare a mendicare. Le piacerebbe andare a scuola? Riflettei di nuovo. Avevo un'idea molto vaga di quel che fosse una scuola. Bessie ne parlava qualche volta come di un posto dove le ragazze stanno sedute su panche di legno davanti a una tavola grande e dove si esige da loro obbedienza, puntualità e applicazione. John Reed odiava la sua scuola e svillaneggiava il suo maestro, ma i gusti di John Reed non potevano essere di norma ai miei. E se ciò che Bessie raccontava della disciplina scolastica mi ispirava un certo sgomento, la sua descrizione delle doti e delle cognizioni acquisite da quelle stesse signorine della famiglia dove aveva lavorato mi attraeva molto. Bessie mi vantava i bei paesaggi e i fiori dipinti da loro, le ballate che cantavano e la musica che sapevano suonare al pianoforte, i loro lavori di ricamo e i libri francesi che traducevano, ed io, ascoltando quelle descrizioni, mi sentivo accendere di emulazione. Inoltre la scuola avrebbe portato nella mia vita un cambiamento radicale, un lungo viaggio, l'allontanamento da Gateshead e l'inizio di una nuova esistenza. Sì, mi piacerebbe proprio andare a scuola, risposi a conclusione delle mie meditazioni. Bene, bene, staremo a vedere, disse il signor Lloyd alzandosi. La bambina ha bisogno di un cambiamento d'aria e di ambiente, aggiunse come parlando tra sé. I suoi nervi non sono in buone condizioni. Bessie ricomparve sulla soglia e in quel momento udimmo il rumore della carrozza sulla ghiaia del viale. «E la signora Bessie?» domandò il signor Lloyd. «Vorrei parlarle prima di andarmene». Bessie lo invitò a scendere in salotto e lo precedette per fargli strada. Nella conversazione che seguì tra lui e la signora Reed, presumo, dagli avvenimenti verificatisi più tardi, che il farmacista azzardasse raccomandarle di mettermi in collegio, e la raccomandazione fu senza dubbio accolta abbastanza rapidamente, poiché la sera stessa Abbott e Bessie, mentre erano intente a un lavoro di cucito nella camera dei bambini, ritenendomi addormentata, si misero a parlarne. La signora è proprio contenta, diceva Abbott, di liberarsi d'una bambina tanto antipatica e ribelle, che pare sorvegli sempre tutti e mediti chissà quali cattiverie. Abbott, suppongo, mi riteneva niente meno che una specie di Guy Fawkes bambina. In quella stessa occasione appresi, anche per la prima volta dalle confidenze di Abbott e Bessie, che mio padre era stato un povero pastore, che mia madre lo aveva sposato contro il volere dei suoi, che ritenevano quel matrimonio inferiore alla sua condizione, che mio nonno Reed si era talmente irritato per la sua disobbedienza da cacciarla di casa senza un soldo, che dopo un anno dalle nozze mio padre si era ammalato di tifo, assistendo i poveri della grande città manifatturiera dove aveva la sua parrocchia, durante un'epidemia di quel male. Mia madre aveva preso da lui il contagio ed entrambi erano morti alla distanza d'un mese. Bessie, all'udir questo racconto, sospirò e disse: «Quella povera signorina Jane merita davvero compassione, Abbott». «Sì», rispose Abbott, «se fosse buona e gentile, saperla così sola farebbe compassione, ma non me la sento di commuovermi per un rospo simile». «È vero», annuì Bessie, «certamente una bellezza come la signorina Georgiana sarebbe molto più commovente nelle stesse condizioni». «Oh, io vado matta per la signorina Georgiana», esclamò Abbott sdilinguendosi. «Cara piccina, con quei bei ricci e con quegli occhi azzurri e il colorito, ha le guance che sembrano dipinte». Bessie, per cena mangerei un po' di coniglio. Anch'io, arrosto e con cipolle. Venga, andiamo giù. E lasciarono la stanza. Capitolo 4. Dopo il mio colloquio con il signor Lloyd e la conversazione tra Bessie e Abbott riferita qui sopra, riacquistai sufficiente speranza per desiderare di ristabilirmi in salute. Un cambiamento sembrava prossimo. Lo desideravo e lo aspettavo in silenzio, ma intanto i giorni e le settimane passavano senza che avvenisse nulla di nuovo. Avevo recuperato la salute, ma nessuno faceva più allusione all'argomento che era oggetto delle mie meditazioni. Talvolta la signora Reed mi osservava con occhio severo, ma raramente mi rivolgeva la parola. Dal giorno della mia crisi nervosa, ella aveva tracciato una linea di separazione ancora più marcata tra me e i suoi figlioli. Mi Mi aveva messa a dormire sola in uno stanzino ed ero condannata a consumare in solitudine i miei pasti e a trascorrere le giornate nella stanza dei giochi, mentre i miei cugini rimanevano in salotto. Al progetto di mandarmi in collegio non accennava mai, tuttavia cresceva istintivamente in me la certezza che ella non avrebbe sopportato per molto tempo ancora la mia presenza sotto il suo tetto, poiché lo sguardo che posava su di me ogni tanto esprimeva più che mai un'invincibile e ben radicata avversione. Eliza e Georgiana, ubbidendo evidentemente ad ordini ricevuti, mi parlavano il meno possibile. John mi faceva le boccacce ogni volta che mi incontrava e un giorno tentò di picchiarmi, ma poiché io fui pronta a rivoltarmi, mossa dallo stesso sentimento di ira profonda e di disperata ribellione che già una volta si era impossessato di me, egli ritenne più prudente desistere e corse via lanciando improperi e gridando che gli avevo rotto il naso. Era vero che avevo colpito con tutta la forza del mio pugno quella parte prominente del suo viso, e quando mi accorsi d'averlo intimorito, fosse con lo sguardo o con il pugno, non lo so, fui tentata di approfittare sino in fondo di quella mia vittoria. Ma ormai egli era già presso sua madre, e sentii che le raccontava con voce piagnucolosa che quella cattiva Jane lo aveva assalito come un gatto infuriato. Sua madre lo interruppe bruscamente. Non mi parlare più di lei, John. Ti ho detto di non andarle vicino. Non merita che si badi a quello che fa e non voglio che tu né le tue sorelle cerchiate la sua compagnia. A questo punto, sporgendomi dalla balaustra, mi misi a gridare senza riflettere a quello che dicevo. Vuol dire che non sono degni di giocare con me. La signora Reed era una donna piuttosto grossa e pesante, ma all'udire quella strana e audace dichiarazione corse velocemente su per la scala. E rapida come un turbine, mi trascinò nella camera dei giochi, dove spingendomi contro il mio letto mi intimò in tono enfatico di non muovermi di lì e di non pronunziare più parola per tutto il resto della giornata. Che cosa direbbe lo zio Reed se fosse vivo? Le domandai, quasi involontariamente. Dico così perché la mia lingua pronunciò queste parole senza il consenso della mente, come se in me vi fosse una forza che non riuscissi a controllare. Come? Esclamò la signora Reed, respirando appena. I suoi occhi grigi, di consueto freddi e impassibili, furono turbati da un'espressione di paura. La sua mano allentò la stretta intorno al mio braccio ed ella mi guardò come chiedendosi se fosse una bambina o uno spirito maligno. In quel momento, infatti, io non avevo più timore di nulla né di nessuno. Mio zio Reed è in cielo, continuai, e può vedere tutto quello che lei zia pensa e fa, e così pure il babbo e la mamma. Essi sanno che lei mi tiene chiusa in camera tutto il giorno e che vorrebbe vedermi morta. La signora Reed si riprese subito, scrollandomi violentemente mi assestò due schiaffi e poi mi lasciò senza più dir parola. Beh, si riempì quel silenzio con una predica che durò un'ora, dimostrandomi senza possibilità di dubbio che ero la bambina più cattiva e più abbandonata che vi fosse al mondo. Fui lì per crederle, poiché non sentivo urgere nel mio cuore altro che cattive ispirazioni. Novembre, dicembre, metà gennaio trascorsero così. Il Natale e il Capodanno erano stati celebrati a Gateshead con i consueti festeggiamenti. Vi era stato lo scambio dei regali, una serie di pranzi e di ricevimenti. Io, naturalmente, ero esclusa da ogni divertimento. Tutta la parte che mi era concesso prendere all'allegria generale consisteva nell'assistere alla toilette di Eliza e di Georgiana, nel vederle ogni giorno scendere in salotto con i loro vaporosi abiti di mussolina, stretti alla vita da una fascia scarlatta e con i capelli bene arricciati attorno alle gote e sulle spalle. Poi ascoltavo il suono del pianoforte e dell'arpa che saliva affievolito dal pian terreno, tendevo l'orecchio ai passi frettolosi del maggiordomo e delle cameriere, al tintinnio dei bicchieri e delle porcellane durante i rinfreschi, ai frammenti di conversazione che uscivano dal salotto allorquando si apriva e si chiudeva la porta. Quando ero stanca di questa occupazione, lasciavo la scala per tornare nella camera dei bambini, deserta e silenziosa. In quella camera, anche se un po' triste, non mi sentivo infelice. A dire il vero, non avevo alcun desiderio di scendere in salotto, poiché di tutta la compagnia che v'era radunata, difficilmente qualcuno vi avrebbe rivolto la parola. E se Bessie si fosse mostrata un po' più gentile e socievole con me, sarei stata felice di trascorrere tranquillamente le serate accanto a lei, anziché sotto lo sguardo severo della signora Reed, in una stanza piena di gente elegante. Ma Bessie, non appena aveva vestito le sue padroncine, soleva raggiungere il chiassoso regno della cucina e della dispensa, spesso portandosi via il lume. Allora mi sedevo con la bambola sulle ginocchia accanto al fuoco finché non si spegneva, gettandomi di quando in quando un'occhiata intorno per sincerarmi che nessuno all'infuori di me respirasse nella stanza semibuia. Quando la brace cominciava a impallidire, mi spogliavo in fretta, sciogliendo alla meglio nastri e fettucce, e correvo a cercare riparo nel mio lettino contro il freddo e l'oscurità. Portavo sempre la mia bambola a letto con me. Gli esseri umani hanno bisogno d'amare qualche cosa, e io, in mancanza di meglio, mi accontentavo di amare e vezzeggiare quella pupattola smunta e scarmigliata al pari di uno spaventapasseri in miniatura. Mi stupisce sempre oggi ricordare con quanta assurda sincerità io amassi quel giocattolo, che allora ritenevo vivo e capace di sentire. Non riuscivo ad addormentarmi se prima non avvolgevo la bambola nella mia camicia da notte, e quando l'avevo riscaldata con il mio tepore, mi sentivo contenta, pensando che anch'essa lo fosse. Come mi sembravano lunghe le ore mentre aspettavo la partenza degli invitati, spiando i passi di Bessie sulle scale. Talvolta ella risaliva a prendere il ditale o le forbici e a portarmi per cena una fetta di torta al formaggio o qualche pasticcino. Si sedeva sul letto mentre io mangiavo, poi, quando avevo finito, rimboccava per bene le mie coperte e due volte anche mi baciò, dicendomi «Buonanotte, signorina Jane». Quando si mostrava così gentile con me, Bessie mi pareva la più bella, dolce e buona creatura che vi fosse sulla terra, e desideravo ardentemente di vederla sempre così, e che non mi rimproverasse, non mi maltrattasse, non mi imponesse più doveri irragionevoli, come faceva tanto spesso. Bessie Lee doveva essere una ragazza intelligente, credo, perché riusciva bene in tutto quello che faceva e sapeva raccontare bellissime favole. O perlomeno così mi sembra, a giudicare dal fatto che i suoi racconti sono ancora impressi nella mia mente. Era anche graziosa, se la memoria non mi inganna. Nel mio ricordo ella appare come una giovane snella, dagli occhi e dai capelli neri, dai lineamenti fini e carnagione chiara. Ma aveva un carattere vivo e capriccioso ed era affatto indifferente a qualsiasi concetto di giustizia. Pure, così com'era, la preferivo a chiunque altro, a Gateshead Hall. Era il 15 gennaio, verso le 9 di mattina. Bessie era scesa in cucina per fare colazione. Le mie cugine non erano state ancora chiamate dalla loro mamma. Eliza stava mettendosi il cappello e un cappotto pesante per andare a nutrire il suo pollame, un'occupazione che le piaceva tanto, anche perché dal pollaio ricavava denaro vendendo le uova alla cuoca. Aveva molta disposizione per il commercio e una marcata tendenza al risparmio, che si manifestava non soltanto nella vendita delle uova e dei pulcini, ma anche nei vantaggiosi affari che concludeva con il giardiniere, al quale forniva sementi, bulbi e fiori. Il giardiniere aveva ricevuto l'ordine dalla signora Reed di acquistare dalla padroncina qualsiasi prodotto della sua aiola e la volesse vendere, ed Eliza avrebbe venduto anche i capelli che aveva in testa se avesse potuto ricavarne un buon utile. Quanto al denaro, da principio lo nascondeva negli angoli più impensati, avvolti in un pezzetto di stoffa o di carta, ma poi la cameriera, avendo scoperto alcuni di quei nascondigli, Eliza, timorosa di perdere il suo tesoro, consentì ad affidarlo alla madre, esigendo un interesse del 50 o 60%. Questo interesse da usuraio Eliza lo ritirava ogni trimestre, tenendone conto con ansiosa cura in un taccuino. Georgiana, seduta davanti allo specchio su una seggiola alta, intrecciava ai suoi capelli ricciuti fiori artificiali e penne sbiadite che aveva scovato in un ripostiglio della soffitta. Io stavo rifacendo il mio letto, avendo ricevuto ordine preciso da Bessie di sbrigarmi a riassettare la stanza prima del suo ritorno, poiché adesso ella si serviva sovente di me come di una cameriera in sottordine, incaricandomi della pulizia della camera e di altre simili faccende. Dopo aver steso la coperta e ripiegato la mia camicia da notte, andai alla finestra per riordinare i libri illustrati e i giocattoli che vi erano sparsi. Ma Georgiana mi ordinò bruscamente di lasciar stare la sua roba, poiché quelle seggioline e quegli specchi minuscoli, quelle tazze e quei piattini da bambola appartenevano a lei. Allora, non sapendo che fare, accostai le labbra ai vetri appannati da fiori di ghiaccio e, soffiandovi sopra, vi aprii un riquadro attraverso il quale potei guardar fuori. Il giardino e la campagna si stendevano immoti e come pietrificati dal gelo intenso. Da quella finestra si scorgeva la casina del custode e il viale dal quale passavano le carrozze. Proprio mentre il mio alito scioglieva una parte degli argentei ghirigori che velavano i vetri, vidi il cancello aprirsi per lasciare entrare una carrozza. La guardai avvicinarsi con indifferenza. Molte carrozze venivano a Gateshead, ma nessuna conduceva mai un visitatore che potesse interessarmi. La carrozza si fermò davanti alla casa, si udì una scampanellata e il visitatore fu fatto entrare. Poiché di questo fatto poco mi importava, la mia attenzione fu attirata da un piccolo petirosso affamato che venne a posarsi cinguettando sui ramispogli di un ciliegio cresciuto a ridosso del muro. Sul tavolo vi erano ancora i resti della mia colazione. Sminuzzai un po' di mollica di pane e stavo già abbassando il vetro per spargere le briciole sul davanzale quando Bessie entrò in camera a precipizio. «Signorina Jane!» mi disse tutta affannata. Si tolga il grembiule e che cosa fa? Si è lavata le mani e la faccia stamattina? Diedi un altro strattone alla maniglia della finestra prima di rispondere, perché volevo che il petirosso avesse anche lui la sua colazione. La finestra si aperse, sparpagliai le briciole un po' sul davanzale e un po' sopra un ramo, e poi, richiudendo i vetri, disse: No, Bessie, ho appena finito di spolverare. Che bambina sciatta e infingarda! Che cosa faceva? È tutta rossa, come se avesse combinato qualche monelleria. Perché ha aperto la finestra? Ma la noia di rispondere mi fu risparmiata, perché Bessie sembrava avere troppa fretta per stare ad ascoltare le mie spiegazioni. Mi trascinò al lavandino e con acqua e sapone e un ruvido asciugamano mi strofinò e mi asciugò senza riguardo la faccia e le mani. Per fortuna fece presto, poi mi strigliò i capelli, mi sfilò il grembiule e mi spinse alla svelta sul pianerottolo, ordinandomi di scendere immediatamente in sala da pranzo dove ero attesa. Avrei voluto chiedere da chi, e se giù avrei trovato anche la signora Reed, ma Bessie era sparita, chiudendo dietro di sé la porta della camera. Scesi la scala a passo, da 3 mesi circa non ero più stata chiamata in presenza della signora Reed. Confinata per tanto tempo nella mia camera, la sala da pranzo, il salotto e le altre stanze del pian terreno mi sembravano una regione paurosa, della quale varcavo la soglia con sgomento. Raggiunsi l'anticamera deserta. Di fronte a me vi era la porta della sala da pranzo, e là mi fermai, tremante e intimidita. Come mi aveva resa misera e codarda la paura generata da ingiuste posizioni. Non osavo risalire in camera, non osavo entrare in sala. Rimasi così esitante per 10 minuti, in preda all'agitazione. Un'energica scampanellata che uscì dalla sala da pranzo mise fine alle mie incertezze. Dovevo entrare. Chi può aspettarmi? Mi chiedevo, mentre giravo con ambo le mani la pesante maniglia che resisteva ai miei sforzi. Chi troverò insieme alla zia? Un uomo o una donna? La maniglia cedette, la porta si schiuse, io sgusciai dentro attraverso lo spiraglio. Feci un profondo inchino e alzai gli occhi su una nera colonna. Tale almeno mi parve a prima vista la forma stretta, rigida, vestita di scuro, che stava ritta sul tappeto. La faccia tetra in cima a quella figura sembrava una maschera scolpita lassù, al pari di un capitello sopra una colonna. La signora Reed, seduta al suo solito posto accanto al caminetto, mi fece cenno di avvicinarmi. Ubbidii, ed ella mi presentò all'immobile visitatore con queste parole: Ecco la bambina per la quale mi sono rivolta a lei. Egli, poiché si trattava di un uomo, volse lentamente la testa dal mio lato e, dopo avermi esaminata con 2 grigi occhi inquisitori che lampeggiavano sotto folte sopracciglia, in tono solenne e con voce profonda, disse: È piccola, quanti anni ha? 10. Non si direbbe, osservò in tono di dubbio e prolungò il suo esame per qualche minuto ancora. Poi si rivolse a me: Come ti chiami, piccina? Jane Eyre, signore. Nel pronunciare queste parole lo guardai. Mi parve alto, ma allora io ero molto piccola. Aveva una fisionomia molto marcata e in quei tratti, come nelle linee di tutta la sua persona, mi parve di scorgere durezza e ipocrisia. Dunque, Jane Eyre, sei una brava bambina? Era impossibile dare una risposta affermativa. Il piccolo mondo nel quale mi muovevo nutriva l'opinione opposta, così tacqui. La signora Reed rispose per me, scrollando eloquentemente il capo e affrettandosi a dire: Meno parleremo di ciò e meglio faremo, signor Brocklehurst. Me ne dispiace davvero. Bisogna che parli un poco con la bambina. E rinunziando alla posizione perpendicolare, egli si installò in una poltrona di fronte alla signora Reed. Avvicinati, mi disse poi. Feci qualche passo avanti sul tappeto ed egli mi obbligò a mettermi proprio di faccia a lui. Che impressione mi fece quel volto, ora che lo vedevo quasi alla stessa altezza del mio, che naso enorme, che bocca e che orribile dentatura, così grossa e sporgente. Non vi è nulla di più triste dello spettacolo che offre un fanciullo cattivo, cominciò. Specie quando si tratta di una bambina. Lo sai dove vanno i cattivi dopo morti? La mia risposta fu pronta e ortodossa. Vanno all'inferno, dissi. E che cos'è l'inferno, sai spiegarmelo? Un abisso pieno di fiamme. Vorresti precipitare in quell'abisso e rimanervi a bruciare per l'eternità? No, signore. E allora che cosa devi fare per evitarlo? Riflettei un momento e poi diedi una risposta facilmente attaccabile. Devo mantenermi in buona salute per non morire. E come farai a mantenerti in buona salute? Di bambini piccoli come te ne muoiono molti ogni giorno. Ho sotterrato una bambina di 5 anni soltanto 2 o 3 giorni fa. Una bimba buona, e la sua anima adesso è salita in cielo. Ma temo che lo stesso non si potrebbe dire della tua se tu fossi chiamata nell'altro mondo ora. Non essendo in grado di dissipare i dubbi di quel signore, abbassai gli occhi sui suoi grossi piedi piantati sul tappeto e sospirai, desiderando di trovarmi a 1.000 miglia da lì. Spero che questo sospiro ti sia salito dal cuore e che tu ti penta di aver causato tante preoccupazioni alla tua benefattrice. Benefattrice? Benefattrice? Protestai tra me. La chiamano tutti mia benefattrice, la signora Reed, se lo è davvero allora una benefattrice, una persona odiosa. Reciti sempre le tue preghiere al mattino e alla sera? Continuò il mio interrogatore. Sì, signore. Leggi la Bibbia? Qualche volta. Con piacere? È una lettura che ti interessa? Mi piacciono le Rivelazioni, il libro di Daniele, la Genesi e Samuele e qualche brano dell'Esodo, dei Re e delle Cronache. Mi piacciono anche Giobbe e Giona. E i Salmi? Spero che tu li legga volentieri. No, signore. No? Che vergogna! Ho un bambino più piccolo di te che conosce a memoria 6 salmi e quando gli si domanda se preferisce mangiare il pan pepato o imparare un versetto risponde: Oh, imparare un versetto perché gli angeli cantano i salmi e io voglio essere un angioletto sulla terra. E allora gli diamo 2 pezzi di pan pepato in ricompensa della sua devozione. I salmi non sono interessanti, osservai. Questo dimostra che il tuo cuore è cattivo e sarà bene che tu preghi Dio di cambiartelo e di dartene un altro più puro. Di toglierti quel cuore di pietra e concedertene uno di carne. Stavo per chiedergli attraverso quale processo si sarebbe effettuato il cambiamento, quando la signora Reed mi disse di sedermi e poi prese a dirigere lei il seguito della conversazione. Credo, signor Brocklehurst, di averle accennato nella mia lettera di 3 settimane fa che questa bambina non ha né il carattere né le tendenze che avrei desiderato trovare in lei. Se sarà ammessa alla scuola di Lowood, intendo che il direttore e le maestre non la perdano d'occhio e soprattutto che siano messi in guardia contro il suo peggior difetto, cioè la sua tendenza alla menzogna. Dico questo in tua presenza, Jane, perché tu non tenti di trarre in inganno il signor Brocklehurst. Ero naturalmente incline a odiare e a temere la signora Reed, che pareva non potesse fare a meno di ferirmi sempre in modo crudele. Mai in sua presenza ero stata felice. Qualunque sforzo facessi per ubbidirle e per piacerle, non ricevevo in cambio che ripulse o rimproveri come quello che ho riferito ora. Questa volta, proferita davanti ad un estraneo, l'accusa mi colpì dritto al cuore. Mi rendevo conto vagamente che ella già faceva svanire ogni speranza dalla nuova vita alla quale mi destinava. Sentivo, anche se non sarei stata in grado di esprimere con chiarezza quel mio sentimento, che ella seminava avversione e malevolenza sul sentiero che mi accingevo a percorrere. Mi vedevo trasformata agli occhi del signor Brocklehurst in una bambina falsa e dall'animo malvagio, e che cosa potevo fare per lavarmi da quell'offesa? Niente, proprio niente, pensavo tra me, lottando per reprimere un singhiozzo e asciugando in fretta qualche lacrima, segno evidente della mia impotenza e dell'angoscia che mi dominava. L'ipocrisia è un brutto vizio in una bambina, disse il signor Brocklehurst. Non è dissimile dalla falsità, e tutti i bugiardi dopo morti sono condannati a patire in un lago di fiamme e di zolfo. Ma sarà sorvegliata, signora Reed, e parlerò io stesso alla signorina Temple e alle maestre. Vorrei anche che venisse educata come si conviene alla sua condizione, continuò la mia benefattrice, che le insegnassero l'umiltà e l'amore al lavoro. In quanto alle vacanze, se lei lo permette, signor Brocklehurst, le trascorrerà sempre a Lowood. La sua decisione è molto saggia, signora, rispose il signor Brocklehurst. L'umiltà è una virtù cristiana che ben si addice alle allieve di Lowood. Infatti, mi preoccupo che si ponga ogni cura nel coltivarla in loro. Da tempo studiavo il modo migliore per mortificare nelle educande il sentimento mondano dell'orgoglio, e proprio l'altro giorno ho avuto una prova soddisfacente del mio successo. La mia secondogenita, Augusta, si era recata con sua madre a visitare la scuola e, ritornando a casa, ha esclamato: Oh, papà, come sono timide e semplici le ragazze di Lowood, con i capelli pettinati dietro le orecchie, coi grembiuli lunghi e le tasche cucite di fuori. Sembrano quasi figlie di povera gente. E come ci hanno guardate me e la mamma, pareva non avessero mai visto un vestito di seta. Ecco, un sistema di educazione che approvo molto, commentò la signora Reed. Se avessi cercato in tutta l'Inghilterra, difficilmente avrei trovato di meglio per il carattere di Jane. Coerenza, coerenza e severità in tutto, mio caro signor Brocklehurst. Ecco ciò che chiedo. Certo, anche la coerenza è uno dei primi doveri cristiani, signora, e nella scuola di Lowood lo osserviamo in ogni cosa. Vitto semplice, abiti modesti, alloggio comodo ma non troppo, vita attiva e severamente disciplinata. Ecco la regola sia della casa sia di chi vi abita. Benissimo, signore. Allora posso essere certa che questa bambina sarà accettata a Lowood e che vi sarà educata come richiede la sua condizione e in vista della vita di lavoro che l'attende? Certamente, signora. La bambina troverà il suo posto in quell'asilo di piante selezionate e spero che si mostrerà grata per l'inestimabile privilegio di tale ammissione. La farò partire al più presto possibile, signor Brocklehurst, perché glielo assicuro, sono ansiosa di liberarmi di una responsabilità che sta diventando troppo pesante. Senza dubbio, signora, senza dubbio. E ora sono costretto ad accomiatarmi. Non farò ritorno a Brocklehurst Hall che tra una settimana o due. Il mio buon amico, l'arcidiacono, non vuole lasciarmi partire prima. Avvertirò per lettera la signorina Temple dell'arrivo di una nuova allieva affinché venga ricevuta senza difficoltà. Addio, signora. Addio, signor Brocklehurst. Saluti per me sua moglie, Augusta e Teodoro, e mi ricordi alla signorina Brocklehurst e al signor Broughton. Non mancherò. Piccina, continuò egli rivolgendosi a me, eccoti un libro intitolato La guida del bambino. Leggi nelle preghiere, ma soprattutto la parte che narra l'improvvisa morte di Martha G., una bambina cattiva che aveva il vizio di mentire. Così dicendo, il signor Brocklehurst mi mise in mano un libricino avvolto in una carta e, dopo aver chiesto la sua carrozza, ci lasciò. La signora Reed ed io rimanemmo sole. Alcuni minuti trascorsero in silenzio. Ella cuciva, io stavo a guardarla. Poteva avere a quell'epoca 36 o 37 anni. Era una donna robusta, con spalle larghe e membra vigorose, piccola, ma sebbene in carne, non obesa. Il mento eccessivamente pronunciato e le mandibole pesanti facevano sembrare largo il suo viso dalla fronte bassa, dove spiccavano per la loro linea più delicata la bocca e il naso. Sotto le ciglia chiare brillava uno sguardo privo di bontà. I capelli erano di un biondo smorto, in contrasto con la carnagione scura e opaca. Il suo fisico, straordinariamente sano e resistente, ignorava le malattie, e la sua mente fredda e precisa faceva di lei un'abile amministratrice, tanto che non solo la casa, ma tutti i beni terrieri erano sotto il suo diretto controllo. Solamente i figli talvolta sfidavano la sua autorità e ridevano di lei. Vestiva bene, aveva modi e portamento atti a mettere in risalto la sua eleganza. Seduta su uno sgabello a pochi passi dalla sua poltrona, io la guardavo, scrutandone le fattezze. Tenevo ancora in mano il libretto che raccontava la morte repentina di una bimba bugiarda e che mi era stato regalato perché mi servisse di monito. Ciò che era avvenuto poco prima, ciò che la signora Reed aveva detto di me al signor Brocklehurst, tutta la loro conversazione ripassava nella mia mente con dolorosa lucidità. Ognuna di quelle parole giungendomi all'orecchio mi aveva ferita al cuore e ora un cupo risentimento mi agitava tutta. La signora Reed levò gli occhi dal lavoro e mentre il suo sguardo si posava su di me, le sue agili dita interruppero il loro movimento. Esci di qui e ritorna in camera, mi ordinò. Il mio sguardo, o forse qualche altra cosa, doveva averla offesa, perché sebbene si contenesse, nella sua voce vibrava un'estrema irritazione. Mi alzai e mi diressi verso la porta, ma tornai subito indietro e attraversando la stanza mi avvicinai alla finestra. Poi finalmente mi accostai a lei. Dovevo parlare. Ero stata calpestata e vilipesa senza pietà e dovevo ribellarmi. Ma come? Quali mezzi avevo per vendicarmi della mia nemica? Raccolsi tutte le mie energie e le lanciai in viso queste dure parole. Non sono ipocrita. Se lo fossi, avrei detto che le voglio bene, ma non le voglio bene e lo dichiaro. La detesto più di chiunque altro al mondo, eccetto John Reed. E questo libro che parla d'una bugiarda può darlo alla sua Georgiana, perché è lei che mente, non io. Le mani della signora Reed posavano ancora immobili sul ricamo e i suoi occhi di ghiaccio continuavano a fissarmi. Hai altro da dire? Mi chiese infine con un tono che sarebbe stato più adatto per parlare ad un adulto che a una bambina. Quello sguardo, quella voce rinfocolarono tutta la mia antipatia. Tremando da capo a piedi, in preda a un incontenibile risentimento, continuai: Sono contenta che lei, signora Reed, non sia mia parente. Finché vivrò non la chiamerò più zia e quando sarò grande non verrò mai a trovarla. Quando qualcuno mi chiederà se le volevo bene e come mi trattava, risponderò che il suo ricordo solo basta farmi soffrire e che mi ha trattata crudelmente. Come osi affermare una cosa simile, Jane Eyre? Come oso, signora Reed? Come oso? Oso perché è la verità. Lei crede che io non senta nulla e che possa fare a meno di affetto e di bontà, ma io non posso vivere così e lei non dimostra comprensione né pietà per me. Ricorderò sempre come mi ha respinta nella camera rossa, quanta durezza c'era nel suo gesto quando mi ci ha chiusa a chiave perché morissi di spavento. Sebbene fossi fuori di me per la paura, sebbene con la voce soffocata dall'angoscia, abbia implorato, abbia pietà, zia, abbia pietà di me. E quella punizione lei me l'ha inflitta perché John, il suo perfido figliolo, mi aveva percossa e gettata per terra senza che io avessi alcuna colpa. Racconterò questa storia tale quale, se qualcuno mi interrogherà. La gente crede che lei sia buona, invece ha un cuore di pietra ed è anche falsa. Non avevo ancora finito di parlare che una singolare sensazione di trionfo esaltò l'animo mio. Era come se un'invisibile catena si fosse spezzata e io avessi conquistato un'insperata libertà. E avevo anche ragione di crederlo, perché la signora Reed sembrava spaventata. Il lavoro le era scivolato dal grembo e agitandosi sulla poltrona, ella si era coperto il viso con le mani come se stesse per piangere. Jane, tu commetti un errore? Ma che cos'hai? Perché tremi così? Vuoi bere un sorso d'acqua? No, signora Reed. Che cosa vuoi, Jane? Ti assicuro che desidero farti del bene. Non è vero. Lei ha detto al signor Brocklehurst che ho un cattivo carattere e che sono un'ipocrita. Ma allo Wood io lo dirò a tutti che donna è lei e come mi ha trattata. Jane, tu non puoi capire certe cose. I bambini devono essere corretti dei loro difetti. La menzogna non è un mio difetto, gridai con voce stridula. Ma sei violenta, Jane, questo lo devi ammettere, e adesso ritorna in camera tua, sii brava, e cerca di riposare, cara. Io non le sono cara, e non posso riposare, mi mandi subito a quella scuola, signora Reed, perché odio questa casa. Sì, la manderò il più presto, mormorò ella tra sé, e raccogliendo il lavoro uscì rapidamente dalla stanza. Rimasi sola e vittoriosa in campo. Era la battaglia più aspra che mai avessi combattuto, e la mia prima vittoria. Restai un momento seduta dove era prima il signor Brocklehurst, assaporando la mia solitudine di conquistatrice. Dapprima sorrisi tra me ancora inebriata, ma poi, con l'acquietarsi dei battiti violenti del mio cuore, anche quell'acre gioia si spense. Un bambino non può insultare un adulto come avevo fatto io, non può dare sfogo alla collera senza provare poi la puntura del rimorso e il gelo della reazione. Quando avevo accusato e minacciato la signora Reed, il mio animo era come un fascio d'erbe secche investito, acceso e divorato dalle fiamme. Ma dopo una mezz'ora di silenzio e di riflessione, rendendomi conto della pazzia commessa e della tristezza della mia odiata e odiosa posizione, quel fascio ardente si mutò in un mucchio di sterpaglia nera e incenerita. Avevo gustato per la prima volta qualche cosa che somigliava alla vendetta e mi era sembrato di bere un vino aromatico, caldo ed eccitante. Ma ora mi aveva lasciato in gola un gusto metallico e corrosivo, un gusto come il veleno. Avrei voluto raggiungere la signora Reed e chiederle perdono, ma sapevo per esperienza e per istinto che mi avrebbe respinta, con raddoppiato astio e inimicizia, accendendo così nuovamente gli impulsi turbolenti della mia natura. Preferii allora ridestare in me qualche istinto migliore di quello di proferire insulti, cercando di nutrire un sentimento meno amaro dell'indignazione. Presi un volume di racconti arabi, mi sedetti e tentai di leggere, ma senza capir nulla. Tra le pagine e me si intromettevano i miei pensieri, impedendomi di ritrovare in quel racconto il godimento che mi aveva sempre procurato. Allora apersi la porta a vetri della sala da pranzo. Lì fuori l'alberetta era spoglia e silenziosa. Né il sole né il vento erano riusciti a vincere la crosta di ghiaccio che induriva il suolo. Mi copersi la testa e le spalle con la gonna e uscii, volgendo i passi verso un angolo remoto del boschetto. Ma non provai alcun piacere, passeggiando sotto quegli alberi immoti, tra quelle pigne, ultimi resti dell'autunno disseminate a terra e le foglie secche ammonticchiate dal vento. Mi appoggiai a uno steccato, guardando i campi deserti, dove nessun gregge pascolava. E l'erba, falciata dal gelo, appariva tutta bianca. Era una giornata particolarmente grigia e un cielo opaco, foriero di nuova neve, incombeva sul paesaggio. A intervalli volteggiava già nell'aria qualche falda che cadeva sul sentiero ghiacciato e sulla brina dei prati senza liquefarsi. Ed io, sgomenta e disperata, mi andavo chiedendo di continuo che cosa devo fare, che cosa devo fare. A un tratto udii una voce limpida chiamare: Signorina Jane, che cosa fa laggiù? Venga a far colazione. Era Bessie, lo sapevo, ma non mi mossi. Poco dopo, un passo svelto si avvicinò lungo il sentiero. «Cattiva!» mi disse Bessie. «Perché non risponde quando la si chiama?» La presenza di Bessie mi parve dolce in confronto ai pensieri che mi torturavano, sebbene ella fosse al solito di cattivo umore. Il fatto è che dopo la mia disputa con la signora Reed e la mia vittoria, poco mi importava dei fugaci malumori della bambinaia, ed ero pronta a cercare conforto nel suo giovane cuore. Così le gettai le braccia al collo e le dissi: «Su, Bessie, non sgridarmi!» Non mi ero mai mostrata così franca ed espansiva, e il mio gesto le piacque. «Lei è una strana bambina, signorina Jane», disse fissandomi. «Una bambina vagabonda e amica della solitudine. Andrà presto a scuola, non è vero?» Annuì. «E non le rincresce di lasciare la povera Bessie?» «Che cosa importa a Bessie di me? Mi sgrida sempre!» «Perché è sempre così bizzarra, timida e spaventata? Dovrebbe mostrarsi un po' più ardita!» «Già, per ricevere altre botte?» «Sciocchezze! Certo non si può dire che la trattino bene. Mia madre, quando è venuta a trovarmi la settimana scorsa, mi ha detto che non vorrebbe vedere uno dei suoi figli al posto della piccola Jane. Su, venga in casa adesso. Ho una buona notizia per lei.» «Non ci credo.» «Che significa non ci credo? E perché mi guarda con occhi così tristi? Dunque la signora con le signorine e il padroncino è andata a prendere il tè da amici. Questo pomeriggio, così lei lo prenderà con me. Dirò alla cuoca di prepararle qualche pasticcino. E poi, noi due, andremo a scegliere un po' di roba nei cassetti, perché presto dovrò occuparmi del suo baule. La signora ha deciso che lei parta da Gateshead tra un giorno o due, così bisogna che vediamo quali sono le cose che vuol portarsi via. Bessie, promettimi di non sgridarmi più fino alla mia partenza. Prometto, ma badi d'essere buona e non abbia paura di me. Non si scosti quando mi capita ad alzare la voce, è una cosa che mi dà sui nervi. Non credo che avrò più paura di te, Bessie, perché ormai a te ci sono abituata. Tra poco, invece, chissà quant'altra gente dovrò temere. Se avrà paura di loro, le vorranno male. Come te, Bessie? Io non le voglio male, signorina, anzi, credo di avere più simpatia per lei che per tutti gli altri. Non me lo ha mai dimostrato. Ma guarda che piccola impertinente! Da quando in qua ha cambiato modo di parlare? E che cosa la rende così sicura e audace? Ma presto sarò via di qui e inoltre stavo per raccontarle quello che era avvenuto tra me e la signora Reed, ma riflettendo meglio giudicai che forse era più saggio tacere. Allora è contenta di lasciarmi? Oh no, Bessie, no davvero, e in questo momento mi sento triste. E in questo momento, come si esprime freddamente la mia signorina? Sono sicura che se adesso le chiedessi di abbracciarmi mi direbbe di no. Voglio abbracciarti e augurarti ogni bene. Abbassa un poco la testa. Bessie si chinò e ci scambiamo un abbraccio. Poi, riconfortata, la seguì in casa. Quel pomeriggio trascorse in pace e armonia, e la sera Bessie mi narrò qualcuna delle sue più belle favole e mi cantò le sue canzoni più dolci. Anche per me la vita aveva qualche raggio di sole.